La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è la Rosa Purpurea, come ogni sabato di ogni settimana di tutti gli anni noi siamo qui sempre a raccontarvi tutto il cinema che c'è in sala e oltre, perché chiaramente l'estate, questa prima puntata di agosto estiva della Rosa Purpurea lo conferma, l'estate porta una certa riduzione dei film nuovi in sala, anche se tre novità affrontano questo primo weekend di agosto nei cinema italiani, però l'estate ci porta dietro anche tante altre suggestioni dai festival sparsi in giro per l'Europa, e proprio un festival sarà un po' la spina dorsale di questo fine settimana, di questa puntata della Rosa Purpurea, il Festival di Locarno, che è cominciato da pochissimi giorni, si protrarrà fino alla, quasi a Ferragosto, quindi come dire sarà un inizio di agosto tutto all'insegna del grande cinema nella località tra lago e montagna nel Canton Ticino, nella quale è collocato in questo momento, ce lo immaginiamo su una sorta di cucuzzolo a dominare il Lago Maggiore, Boris Sollazzo, che saluto, ciao Boris. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Se sei sul cucuzzolo ce lo dirai alla fine della trasmissione, quello che importa è che tu sia in grado di raccontarci non solo tutto il cinema che c'è nelle sale cinematografiche italiane, ma anche un po' di Locarno. Ne parleremo durante questa puntata, la trasmissione arriva dopo qualche giorno, dopo pochi giorni di festival, quindi ancora presto sicuramente per trarre dei bilanci, però sicuramente per cominciare a raccontare un po' quello che hai visto in questi primi giorni, sì, e per spiegarci un po' quali sono le promesse e le premesse di questo festival numero 69 della località svizzera. Però come sempre la Rosa Purpurea dà la precedenza alle novità nelle sale cinematografiche italiane, e cominciamo con una film che si intitola Le sorelle perfette, titolo originale Sisters, la regia è di Jason Moore, la protagonista principale Tina Fey, Amy Poehler è la sua sorella appunto nel film, la storia di Katie e Maura, due sorelle appunto richiamate dai genitori che vogliono vendere la loro casa a Orlando in Florida. Le due tornano per scongiurare la vendita di questa casa alla quale sono legate da grande affetto e si inventano una mega festa con i vecchi compagni di liceo. Ascoltiamo la clip. Ehi! Ah! Una rimpatriata fra sorelle! E come va? Mi sto divertendo un sacco. Non ho bisogno della crema lì sotto. Invece è proprio lì che serve. Stiamo cercando un giardiniere in grado di risistemare i nostri cespugli. Scommetto che lavorare su cespugli diversi ti aiuterà anche con i tuoi di cespugli. Non me l'aspettavo da te. Scusa, ho corso un po' troppo. No, mamma e papà hanno venduto la casa in cui siamo cresciute. Dovevano lasciarla a noi. L'unica cosa che dovete fare è liberare la vostra stanza. Oh, cavolo. Davvero un peccato non aver mai fatto l'alba in questa casa. Non pensare di fare una festa. Sei divorziata da 2 anni, vuoi fare la zitella per tutta la vita. Non tentare di convincermi. Allora Boris, mi sembra di poter dire così da questa prima clip che non è certo il sottinteso il tema forte, il pezzo forte in termini di sceneggiatura di questo film. No, direi che il non detto è un po' come il vedo non vedo, no? Non è proprio la tu di questa sceneggiatura, ma non solo di questa sceneggiatura, ma di questo film. Va detto che insomma la presenza di Tina Fey e contemporaneamente un Hollywood drogata dalle commedie al femminile politicamente scorrette portano anche a queste storture, poi acuite da una distribuzione italiana che incomprensibilmente cambia Sisters in Le sorelle perfette, cercando forse un'ironia, un sarcasmo che davvero se è molto elementare, però insomma potremmo scriverci un libro e fare 10 trasmissioni sui cambi di titoli dall'inglese in italiano, sugli adattamenti insomma improbabili. Questo film mette insieme due dei generi più di successo degli ultimi anni, appunto da una parte la commedia al femminile, quella che identifichiamo con personaggi come la McCarthy, come Tina Fey e via dicendo, e dall'altra quella della festa disastrosa, della festa che può finire male, o semplicemente della festa, della notte da leoni per intenderci. E in questo caso è una rimpatriata, che è un genere più europeo, quello della rimpatriata, perché anche di malinconico loro diciamo hanno il pregio, forse l'unico di questo film, di non renderlo così malinconico, perché appunto preferiscono questo ironico non detto, ma in verità insomma questo modo esplicito di comportarsi, di raccontare e di parlare anche, di dialogare. Il problema delle sorelle perfette forse sta tutto là, le due attrici non sono al meglio della loro forma e anche quando lo sono in altri film non sono straordinarie. Dall'altra parte la sceneggiatura, oltre ad essere fin troppo esplicita, è davvero elementare, per cui potresti scriverla e portarla avanti tu spettatore in ogni secondo dell'espressione, della continuazione delle sorelle perfette. E poi, come sempre, soprattutto in questi generi così particolari, c'è proprio un problema di adattamento anche dello spettatore, nel senso un genere che negli Stati Uniti, per il tipo di umorismo che ha e per il tipo di ironia che ha, funziona, e che invece qui da noi è proprio lontano anche culturalmente dall'immaginario cinematografico, ma non solo, anche comico. Questo fa sì che insomma non mi sorprende affatto la scelta di metterlo il 4 agosto e di farlo uscire insomma un po' la chetichella. Anche chi lo distribuisce si è reso conto che insomma il fascino può essere relativo fin dall'approccio. Ecco Boris, quindi una commedia che sì, effettivamente prende il suo spazio nell'estate, nel vuoto diciamo così dell'estate, e forse questo fa risaltare ancora un po' la promessa tradita ancora una volta da parte della distribuzione italiana, cioè avremo film per tutta la stagione, dobbiamo avere film per tutta la stagione. Questo dimostra, cioè l'uscita di questo tipo di film che escono un po' dai fondi di magazzino in questo senso, dimostra che insomma le cose non stanno proprio così. Ma è una promessa tradita, adesso sì, è vero, è sicuramente una promessa tradita dalle distribuzioni, che anche quest'anno hanno preso delle scelte abbastanza improbabili, tra cui appunto far passare un Colossal da fine luglio a settembre, quando già era stato programmato, e quindi anche facendo saltare sostanzialmente la programmazione degli altri che si erano organizzati per contrastare insomma o evitare questo tipo di soluzione. Quindi sicuramente c'è un errore di distribuzione, c'è uno scarso coraggio della distribuzione. C'è anche da dire che poi dobbiamo essere sinceri, e c'è un pubblico che va meno al cinema d'estate, in particolare tra fine luglio e la terza settimana di agosto, insomma diserta quasi le sale cinematografiche, e in più ci sono degli esercenti che non di rado mettono dei chiusi per ferie che insomma magari anche in luoghi dove i cinema non sono moltissimi o sono anche solo gli unici cinema, quindi è un po' un problema di tutta la filiera, francamente. Nella stagione estiva in Italia non ci ha veramente mai creduto nessuno. E allora Boris, questa è un po' l'analisi anche su questo Sorelle Perfette, il primo film fra le novità in sala di questa settimana. Noi adesso diamo la linea alla viabilità, perché è weekend bello tosto per quanto riguarda i trasferimenti e gli esodi vacanzieri, quindi bisogna sentire un po' come vanno le cose sulle strade, poi però torniamo, perché le altre due proposte di cui parleremo adesso sono proposte abbastanza interessanti per diversi motivi. Si tratta di Lights Out, Terrore nel buio, un horror che sta facendo e ha fatto molto bene un po' dappertutto, un classico low budget che poi porta a casa invece un pubblico importante, e l'altro addirittura è un film che io mi sarei visto tranquillamente a settembre invece come programmazione, cioè Equals, film di fantascienza presentato niente meno che a Venezia lo scorso anno, con Kristen Stewart e Nicholas Hoult come due attori protagonisti. Evidentemente c'è materiale anche in questo weekend di agosto. Adesso linea la viabilità, fra poco di nuovo insieme alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, sempre in collegamento con Locarno, con il nostro Boris Sollazzo. Fra poco parleremo del festival. Vi voglio già anticipare di restare con noi fino alla fine della trasmissione, perché l'ultima parte della Rosa Purpurea di oggi avrà due eccezionali ospiti. Da una parte Dominique Sandà, la grande attrice che abbiamo già avuto l'onore di ospitare con un'intervista esclusiva nella prima parte settimana scorsa, dove parlava di tutta la sua esperienza con Bernardo Bertolucci. Oggi toccherà a Visconti e a De Sica, quindi come dire, ci racconta racconterà un bel pezzo della storia del cinema italiano con la S maiuscola. E poi ci saranno i protagonisti di I Babysitter, una delle anticipazioni della prossima stagione. Uscirà a fine ottobre con Diego Battantuono, ma oggi avremo ospiti un trio di giovani più o meno comici, tra Paolo Ruffini, Mandelli e il Francesco Facchinetti, che non t'aspetti nel ruolo di attore, che ci racconteranno un po' il lavoro in questo film. Dicevamo però uscite in sala, parliamo di horror che molto spesso, forse proprio per il brivido, rinfresca un po' le schiene dei cinefili estivi ed è il genere per eccellenza della stagione dell'estate. Arriva nelle sale italiane Lights Out, sottotitolo italiano Terrore nel buio, e dice molto, stavolta è molto azzeccato il titolo, diretto da David Sandberg con Teresa Palmer protagonista. È il remake di un cortometraggio del 2013 dello stesso regista, appunto Sandberg, e lavora sulla più ancestrale delle paure, quella per il buio. Sentiamo la clip. Ogni volta che spengo le luci c'è questa donna nascosta nell'ombra. La vedo anch'io. Ognuno di noi è perseguitato da questa cosa. Mamma? Ehi, Martin, che succede? Ti abbiamo svegliato? Quando le luci si spengono, compare un'entità maligna che terrorizza il piccolo Martin. La sorella Rebecca, perseguitata da piccola dalla stessa creatura, dovrà salvare il fratellino e la sua famiglia prima che sia troppo tardi. Boris, dicevamo horror che è un po' il maestro dell'estate. La cosa interessante è vedere come alcuni horror, che sono costati veramente poco a livello di budget, abbiano poi la capacità di conquistare i mercati internazionali al di là della fama degli attori, della fama del regista, al di là di tutto. Evidentemente il pubblico dell'horror è un pubblico affezionato ed un pubblico che sa scegliere il suo prodotto. Sì, l'horror ha questa caratteristica straordinaria di essere cinema, mi verrebbe da dire allo stato puro, ma più che altro allo stato basico, all'occasione di avere sulla tavolozza quasi tutti i sentimenti, perché tu lo puoi virare all'amore, al terrore, appunto, alla paura, e qualsiasi di questi sentimenti, positivi o negativi che siano, vanno analizzati, vanno percorsi nel loro lato oscuro sostanzialmente. Se è bravo il regista come Sandberg e come altri che abbiamo trovato come Mitchell, insomma questa è una buona estate per gli horror, ce ne sono pochi ma buoni, non ci sono problemi perché l'efficacia di un basso budget in questo genere è ancora più alta che in qualsiasi altro genere. Il problema di Sandberg è che, a differenza di altri film che abbiamo visto, che abbiamo apprezzato moltissimo, lui sconta il peccato originale, cioè il fatto che stiamo parlando di un soggetto che nasce da un corto, anche di discreto successo nel circuito cinematografico degli Stati Uniti, e che portato a lungo in effetti fa fatica. È intelligente Sandberg perché gioca sul ritmo, gioca su una durata molto breve, gli 81 minuti non sono un caso, non cerca di arrivare ai 100 minuti ormai di prassi anche per gli horror, ma si tiene basso proprio perché sa di non avere tantissimo respiro. Ha la fortuna di avere un'ottima attrice secondo me, perché pur non facendo una prova che fa spellare le mani riesce ad essere sempre molto efficace e a rendere credibile una storia che non sempre è credibile. Ci sono dei momenti che insomma rischiano di essere al limite della parodia, ma sono girati e interpretati bene e non lo sono. Penso al momento in cui banalmente accendi e spegni la luce, no? In un gioco che fai da bambino e man mano si intravedi un'ombra che si avvicina, quell'ombra diciamo a livello di effetto speciale non è fatta straordinariamente bene e si rischia insomma l'effetto risatina, ma questo non accade perché poi sono molto capaci tutti, insomma mi sembra che ci sia una grande professionalità nel costruire il film. Di contro, appunto, tra le qualità c'è la gestione del ritmo, c'è la capacità che ormai sembra quasi un sottogenere dell'horror, cioè l'ereditarietà di un male ineluttabile che devi in qualsiasi modo subire, no? Se, che sia per un amplesso giovanile che te lo passa per via venerea o che sia per appunto cromosomi come tra sorella e fratello, comunque questo male ineluttabile che continua a perpetrarsi, che continua a passare tra persone che si vogliono bene, questo è molto affascinante e secondo me è molto legato all'attualità. Sono molto curioso, ecco, questo film mi ha creato la curiosità di vedere i prossimi film di Sandberg, questo mi sembra un ottimo allenamento, un'ottima prima prova per battere poi però il record del mondo e vincere l'oro olimpico, ce ne vorrà ancora un po', però credo che ci siamo portati a casa un nuovo regista in questo genere che potrà darci tante tante soddisfazioni. E guarda Boris, prendo al balzo la palla che tu mi lanci, però proprio per dire che Sandberg, evidentemente, che è regista svedese, ha convinto con il suo corto prima e con questo suo lungo dopo, tanto che il buon successo commerciale di Lights Out è stato la sorgente per fargli avere la direzione del sequel di Annabelle, che è uno spin-off, qualcuno lo ricorda, uno spin-off di The Conjuring. Il primo film di Annabelle con 6 milioni e mezzo di budget ne aveva incassati 250 in tutto il mondo. Ebbene, il nuovo film, il secondo Annabelle, sarà diretto da Sandberg, uscirà nel 2017, quindi ecco pronto l'appuntamento per Boris Sollazzo e per tutti gli amici che appunto amano questo genere. E allora, Lights Out, Terrore nel buio, seconda proposta di questo weekend. Io ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che il nostro DVD Game è andato semplicemente per qualche settimana in ferie, ma tornerà entro la fine di agosto per regalarvi come sempre tutti i DVD e i Blu-ray più belli della stagione. Vado avanti però con Equals, perché è sicuramente il pezzo forte in termini di nomi, locandina, produzione, budget eccetera eccetera di questa settimana. Equals, un film di fantascienza diretto da Drake Doremus, prodotto da Ridley Scott, con un cast che richiama Nicholas Hoult e Kristen Stewart. Sentiamo la clip. This is a message from the collective. Are you overly tired or experiencing increased sensitivity? Remember, physical contact or displays of feeling are a danger to all of us. Insomma, fantascienza distopica, come avete sentito anche da queste note, diciamo, che sono arrivate dalla clip di questo Equals, la storia di una società del futuro chiamata Collective, nella quale vivono questi esseri senza sentimenti, frutto di esperimenti genetici per creare una società senza violenza. Una malattia, però, un virus, risveglia questi sentimenti, chi la contrae viene mandato al confino, ed è quello, e di lui non si sa più nulla, tra l'altro, ed è quello che vogliono evitare e Silas, i due protagonisti che lotteranno in un certo senso contro il loro destino. Boris, una storia che ancora una volta ci mette di fronte all'esigenza di raccontare un futuro nel quale quello che oggi è il male diventa il bene, quello che oggi è il bene diventa il male. Sì, esatto, questo tipo di fantascienza distopica da tempo, da decenni, esercita una sua forte un suo forte fascino sulla letteratura e anche sul cinema, e recentemente facendo diciamo partire di nuovo il genere da The Island per arrivare a The Lobster, quindi due universi completamente lontani ma allo stesso tempo che parlano di un mondo che pretende di governare un mondo appunto nel futuro, ma che assomiglia in tutto e per tutto al nostro, se non fosse che hanno tutti l'abitudine di mettere delle tutine bianche e candide, però appunto ci si trova in un mondo che pretende di governare tutto in base all'armonia, cercando l'armonia. E qual è il modo migliore per avere sotto controllo queste emozioni? Ovviamente è proibire l'amore, che è il fattore di follia, di anarchia, di incontrollabilità che c'è nelle vite di tutti noi. E qual è la dittatura perfetta, la dittatura più buona? È quella di annullare le emozioni, di rendere completamente apatici soprattutto i giovani, e questo è quello che succede in Equals con Mr. Stewart, che viene anche sfruttata, no, per quel pallore che fa Pandan con la tutina e anche per quella espressione costantemente dolente e indolente, che è perfetto per una gioventù di bamboccioni obbligati che sono costretti a obbedire, credere e rimanere alla propria scrivania a lavorare. C'è anche un filo di Gilliam in tutto questo. Ovviamente sono tutti riferimenti alti per un film che ha invece anche parecchi bassi, perché poi sceglie la strada, a differenza per esempio di Lobster, di un melodramma particolarmente esasperato, sfrutta l'amore che si produce tra i personaggi della Stewart e di Hult per calcare il lato emotivo, per calcare sguardi, per calcare gesti. C'è insomma una deriva da romanzo d'appendice e quello di fantascienza è un po' di serie B. Diciamo che insomma il riferimento potrebbero essere proprio i romanzi dei due generi che si trovavano in edicola e che si trovano tuttora in edicola, tra Harmony e Urania, insomma c'è lo spettro di questo film. Però devo dire che le buone intuizioni di questo film sono davvero ottime e sono quelle che lo tengono sostanzialmente in piedi fino alla fine, pur non essendo un grandissimo film. Nei momenti giusti sa crearti quel pathos, sa crearti quei momenti di rottura e anche di ribellione che ti portano concentrato fino alla fine. È un peccato perché, visto la base, visto il soggetto, potevamo avere molto, molto di più. Così, insomma, un qualcosa di interessante, certo nel genere, molto vicino. Continuo a preferire il film di Lanthimos The Lobster. Però siamo al 4 agosto, The Lobster è già uscito, quindi potete accontentarvi di Equals, visto l'offerta che c'è in questa settimana. Assolutamente, tra l'altro Boris, mi viene in mente, mentre ne parlavi, lo dicevamo settimana scorsa con la trilogia della Notte del Giudizio, sembra quasi che appunto che il cinema abbia trovato in questo modo di raccontare una società nella quale in tutti i modi si cerca di tenere a bada la violenza, il problema da combattere, ma combattendolo con delle armi francamente spropositate, che lì sono una purga di 12 ore all'anno nella quale si può fare di tutto, qui addirittura l'estrazione dei sentimenti dalla psiche umana per poter tenere tutti a bada. Però evidentemente questa deve essere un po' diventata una mania di sceneggiatori e produttori per raccontare, come sempre fa il cinema, anche attraverso altri mezzi, una società che è la nostra società contemporanea, con le sue paure e con i suoi timori. A questo punto noi diamo la linea alla regia, fra poco torniamo, ci colleghiamo con di nuovo con Boris Sollazzo, sempre da Locarno, ma questa volta per parlare del Festival di Locarno, che ha visto i suoi primi film, i suoi primi momenti, anche sullo splendido scenario di Piazza Grande, per cercare di raccontarne un po' i contenuti, perché Locarno va avanti fin quasi a Ferragosto e quindi c'è sicuramente la possibilità per chi vuole di poter andare a assaggiare un pezzettino di questo piccolo grande festival. A fra poco. Pronto? Ah Filippo, ma dove sei? Ma come dove sto? Con sto caldo sto al mare, oh! Ma quale mare, Fili? Torna subito! Per miracolo quelli di Radio 24 ci hanno ingaggiato! Sono riuscito a vendervi un programma, si chiama I Fuori Posto. Ma ci pagano? Ma sì che ci pagano! Ma di che parla sto programma? Che ti devo dire? Parleremo di tutti quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro, nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e mo non ce l'hanno più, eppure di tutti quelli che hanno scelto invece di stare nel posto sbagliato. Dai, muoviti, Fili! Ok, mi hai convinto, vengo! I Fuori Posto, con Umberto Alezio e Filippo Roma, da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. La Rosa Purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, come promesso, per parlare del Festival di Locarno. Ci siamo fino adesso concentrati sulle uscite cinematografiche della settimana da Locarno con Boris Sollazzo, che però adesso invece ci parla di Locarno. E allora Boris, 69esima edizione del Festival Internazionale del Film di Locarno, sempre una grande kermesse che richiama sul Lago Maggiore un numero spropositato di soprattutto di giovani interessati al cinema, cinefili, operatori da tutta Europa e anche da altre parti del mondo, con un concorso che come sempre guarda molto alle opere prime, seconde, terze, comunque ai film in grado un po' di cambiare, di essere novità, di sparigliare il novero, e quindi in questo si differenzia molto dai concorsi un po' più azzimati di festival come Cannes, Venezia, il Festival di Locarno. E allora partiamo proprio dal concorso, Boris. C'è un fil rouge nei film scelti quest'anno per concorrere al Pardo d'Oro? quali film potranno sorprendere secondo te? Beh, sicuramente sì, nel senso che Carlo Chatrian sfrutta la sua giovane età, la sua grande preparazione e secondo me anche un contratto che è stato rinnovato fino al 2020 per fare un progetto di lunga durata. Il programma di Locarno secondo me va giudicato nella sua interezza, perché i cineasti del presente sono uno sguardo al futuro, il concorso è uno sguardo sul presente e la Piazza Grande è uno sguardo su tutto ciò che può essere più popolare ma allo stesso tempo raffinato, perché come ricordavi te la caratteristica di Locarno è avere un pubblico estremamente folto, perché parliamo di proiezioni serali che vanno dalle 8 alle 12.000 persone in una piazza enorme, in uno schermo meraviglioso e in tante sale molto capienti e sempre molto molto frequentate, che ti permettono di seguire percorsi molto molto particolari. La caratteristica di questo concorso in particolare è un ritorno alla tradizione, cioè un ritorno alla ricerca della sperimentazione e allo stesso tempo un ritorno a cercare cinematografie solo apparentemente periferiche. Ci sono film da tutto il mondo, film dall'Egitto, dalla Thailandia, film che percorrono temi sociali, politici, altri film che si affidano all'astrazione. Quindi fare un titolo sarebbe fare un torto, perché tra l'altro appunto Locarno ha anche questa caratteristica molto, molto, secondo me, che davvero non va mai sul sicuro, cioè non è Cannes che fa l'album di figurine nel concorso, se vogliamo è più il Venezia di quest'anno, no? Che cerca di costruire un sentiero narrativo anche del festival molto particolare. E in questo ciclo di Chatrian prima c'era forse più pop tra virgolette, perché bisognava anche sedimentarsi, tenere il pubblico, e adesso invece c'è più ricerca, e lo si capisce anche da quello che succede in Piazza Grande, perché è una Piazza Grande più cinefila, anche se con titoli e argomenti popolari. E lo capisci dai titoli che attirano di più insomma il pubblico, come The Girl with the Old Gifts, che è uno zombie movie ma che ha la mano di Colin McCarthy nel film, e addirittura Jason Bourne, che è uno dei franchise più efficaci e redditizi di Hollywood, ma che vede il ritorno alla regia di uno come Paul Greengrass, che è a tutti gli effetti un regista d'autore, un regista che è andato a gamba tesa nelle contraddizioni degli americani, degli Stati Uniti e delle loro politiche recenti, con film anche molto, molto importanti. C'è un percorso estremamente coerente, estremamente interessante, che porta avanti un discorso che è quello che è sempre stato di Locarno in queste 69 edizioni, ovvero quello della ricerca, della sperimentazione, della scoperta di nuove cinematografie, ed è per questo che appunto dall'Egitto alla Thailandia, come dicevamo prima, non manca nulla, ma anche la ricerca del piacere del pubblico, che però è un piacere alto. Quindi l'impressione è che questa per Carlo Chatrian e per Locarno sarà una edizione di svolta, sarà un'edizione a mio parere programmatica, manifesto rispetto a quello che succederà fino al 2020. Ecco Boris, hai parlato del concorso, hai parlato di Piazza Grande, che è veramente lo scenario forse più suggestivo del mondo per vedere un film. Parliamo anche di questa retrospettiva brevemente, perché comunque, come hai detto tu, scoperta di nuove cinematografie, ma Locarno è anche ogni anno scoperta di vecchie cinematografie, riscoperta di grande cinema, di capolavori restaurati. Abbiamo visto Sam Peckinpah, abbiamo visto Vincent Minnelli, solo per stare agli ultimi anni, in forme, colori e copie straordinarie. Quest'anno si va anche qui un po' sul cinefil, perché si fa una bella retrospettiva sul cinema tedesco, che porta in dentro veramente una quarantina di film, tra cui certo Fritz Lang, certo Pabst, certo Edgar Reitz, però anche tanto cinema tedesco meno mainstream degli ultimi anni, o anche degli anni 50 e 60, in cui insomma non arrivava tanta roba in Italia dalla Germania, e molto spesso sono film poco visti o per nulla visti. Ecco, mi sembra un'operazione fortemente culturale. È un'operazione assolutamente fortemente culturale, anche questo va nel solco della tradizione, ma allo stesso tempo nell'innovazione. Una delle cose più belle di Locarno sono proprio le retrospettive, sono estremamente curate, sono estremamente pensate, viaggiano su due sostanzialmente binari, uno è la retrospettiva tematica e l'altra è la retrospettiva temporale, e poi c'è chiaramente, come hai raccontato tu, anche la retrospettiva dell'autore. E qui ci ritroviamo di fronte appunto all'analisi di una cinematografia che quindi è allo stesso tempo temporale ma anche culturale. E anche qui si torna alla scoperta, alla ricerca, perché noi del cinema tedesco sappiamo molto, il cinema tedesco nel dopoguerra ha offerto tantissimo, no? Pensiamo alla Von Trott, a Wenders, a Fassbinder, ma Locarno capisce che il suo ruolo di festival è anche portare al pubblico ciò che non ha potuto vedere quasi sempre. E allora ecco che arrivare il cinema della Repubblica Federale Tedesca, un cinema che si produce soprattutto dal 49 al 63, e il 63, come potete immaginare, non è una data casuale, che era un cinema che era stato, a causa del dopoguerra, che ovviamente la Germania fu particolarmente complicato da vivere a livello culturale, a livello storico, a livello sociale, porta alla nostra attenzione un cinema molto molto interessante, un cinema fatto di grandi registi che però avevano fatto una fatica enorme, anche per una sorta di pregiudizio politico, a uscire fuori dai confini. E che fa Locarno? Lo fa uscire fuori dai confini e ci fa scoprire che al di là dei registi tedeschi di rottura, quelli che ci aspettavamo di trovare e che non troviamo perché li abbiamo già visti spesso anche a Locarno, c'era una base cinematografica, una serie di autori molto importanti che hanno contribuito poi a costruire quel cinema sperimentale tedesco, quel nuovo cinema tedesco. E quindi la retrospettiva non solo è molto completa, questa è un'altra caratteristica di Locarno, non si accontenta di fare una compilation di film, cerca la filologia, cerca una costruzione narrativa, ecco, questo Locarno vive il festival come un film e quindi scrive anche una buona sceneggiatura, ma ci permette di fare qualcosa di prezioso e che rende unico l'oggetto festival, cioè andare a trovare qualcosa che non troveremmo da nessun'altra parte. E che cos'è un festival se non l'unicità della fruizione? Cioè, in un momento come questo, in un momento storico come questo, in cui YouTube hai la possibilità di scaricare i film, hai l'illusione dell'universalità, dell'accesso totale a tutto, se non quello di farti scoprire qualcosa che non potresti vedere da nessun'altra parte, cioè l'unicità di luogo, di tempo e di fruizione del cinema che solo il festival può rappresentare. Può essere una visione in Piazza Grande, che è appunto un luogo unico, puoi trovare solo a Locarno, ma può essere anche una retrospettiva come quella sul cinema della Repubblica Federale Tedesca, che ti consente appunto di scoprire una cinematografia che anche al cinefilo più agguerrito è sostanzialmente sconosciuta. E questo è effettivamente l'anima di Locarno. Io voglio ricordare anche in ordine sparso il premio a Roger Corman, cioè il più grande creatore di B-movie e di una factory immortale di tutta la storia del cinema, la presenza di Alejandro Jodorowsky, poco cinema italiano, ma qualcosina c'è nel fuori concorso. Insomma, programma ricchissimo. Se ce la fate, se potete, fate un salto a Locarno, perché davvero è uno dei festival che vale la pena vivere almeno una volta nella vita. Grazie Boris, buon lavoro lì a Locarno, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora adesso linea di nuovo alla viabilità, torniamo insieme fra poco qui alla Rosa Purpurea per ascoltare ancora la seconda parte dell'intervista a Dominique Sandà e poi i protagonisti del film I Babysitter, il trio Mandelli, Ruffini, Facchinetti. Fra poco qui alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Ed eccoci arrivati alla quarta parte della Rosa Purpurea, come annunciato due interviste che ci faranno un po' sorridere, quelle con i protagonisti del film i babysitter, ma ancora un po' riflettere sul grande cinema italiano con Dominique Sandà. Partiamo proprio da qui, l'intervista esclusiva alla Rosa Purpurea di Dominique Sandà, la settimana scorsa la prima tranche dedicata al lavoro con Bernardo Bertolucci, soprattutto sul set di Novecento. Oggi ci trasferiamo all'altro grande film che ha contrassegnato la carriera italiana molto fruttuosa di Dominique Sandà, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, in cui la Sandà interpretò il ruolo di Nicole, che è stato un ruolo quasi identitario per lei, come sentirete anche nel corso appunto di questa intervista rilasciata durante il Queer Festival di Palermo, partendo proprio da questa esperienza. Il giardino dei Finzi Contini, Dominique Sandà e Nicole nel film tratto da Bassani, e racconta così quell'esperienza con Vittorio De Sica. Passiamo a Visconti. Qual è il suo ricordo del lavoro in quel film con Visconti? Ah, Visconti me lo ricordo molto bene, è presente, molto presente. Sì, io penso a lui, lo vedo, perché ci abbiamo avuto un rapporti belli e lunghi, non è semplicemente conoscerle e fare questo cameo in suo film penultimo, no? L'ho conosciuto ovviamente perché quando ho fatto Il giardino dei Finzi Contini eravamo molto amici con Helmut Berger, io andavo a casa sua e mi ha invitato più volte a mangiare con lui e con loro alla Via Salaria, la cassa di Via Salaria. Poi l'ho rivisto al Festival de Cannes e voleva lui fare Proust, La recherche du temps perdu, e non si è fatto, però lui aveva pensato a me per fare una parte nel film. E dopo finalmente abbiamo potuto concretare queste. Lui mi ha fatto molto piacere perché nel film lui è venuto al maquillage, alla sala di trucco la mattina, sì. Con il ritratto di sua mamma, un pastel, e mi ha fatto truccare come la madre, pettinare come la madre, mi ha dato il volto di sua madre, che questo ovviamente mi ha dato qualcosa di molto speciale nel cuore. Ti piace quello là? E a te? Oh, figurati, non è il mio tipo. Ma chi è? Un amico d'Alberto, un grande amico. Sai, Milano, università, amore. Lavora qui nella zona industriale. Come stai? Bene, e tu? Bene. Ti sei laureato? Non ancora, spero a febbraio. E tu? Idem. A Venezia? Sì, ma tu pensi che ci lasceranno laureare? Spero ancora di sì. Perché non ti sei fatta viva? Io ti ho visto quando sei venuta a Venezia per i litoriali della cultura. Ti ho riconosciuto subito. Non sei cambiata. Perché non ti sei avvicinata? Non mi hai chiamato. Mi avrebbe fatto piacere. Ma non so, così. All'ultimo ci ho rinunciato. Su che cosa hai preso la tesi? In inglese. Su Emily Dickinson. Sai, quella poetessa americana dell'Ottocento, una donna terribile, una vecchia zitella come me. Lei ha prima citato Il giardino dei Finzi Contini, e allora l'altro grande maestro, Vittorio De Sica. E lì lei ha avuto un ruolo invece veramente importante. Sì. Ecco, anche qui le chiedo cosa le è rimasto di quello straordinario film. Oh, mi è rimasto moltissimo, perché è un film che mi ha accompagnato, mi accompagna tuttora. E il pubblico mi ha associata al personaggio di Nicole, a tal punto che molte volte mi sono incontrata nel mondo, in Turchia, o adesso penso in Istanbul, una volta in un hotel veniva una donna che mi dice: Nicole, Nicole, Nicole, oh Nicole, con una posseduta. Io sono molto emozionata, ovviamente. No, è un personaggio, è un film, è un libro, è una storia, è raccontata di tal maniera per Bassani, dopo per De Sica, c'ha moltissima forza. Questo film è stato mio passaporto per il mondo, no? E ora lasciami, per piacere. Ci telefoniamo domani. No, non dobbiamo telefonarci. Anzi, è meglio che non vieni più qui. Mai più? Sì, ti prego. È meglio. Molto meglio per tutti e due, credimi. Addio. Addio. Se Bertolucci era il poeta, Visconti era il rigoroso, il maestro, cos'era De Sica? E De Sica lo sentì come un padre, ma più, perché era molto protettore e amava. Io sentia che lui amava i suoi attori, e come guardavi, come la pazienza che aveva, perché lui era un gran attore e era bello, e su maniera seduttora di mostrarti che voleva lui. I personaggi più importanti della mia vita sono loro, anche altri personaggi, mio padre, mia madre, mio figlio, mio marito, però tutti questi direttori è una parte importantissima del mio paesaggio, della mia vita. Dominique Sandà alla Rosa Purpurea, una intervista esclusiva che abbiamo proposto al nostro pubblico, ma il cinema non si ferma mai, e non fermandosi mai, Riccione, nell'inizio del mese di luglio, è stata, come sempre, la platea per lanciare le novità italiane del prossimo autunno-inverno, come fanno gli stilisti. E allora in questo caso tanti trailer, tanti film nuovi annunciati, che sono in lavorazione, addirittura sono in produzione o in post-produzione, e uno di questi è I Babysitter. I Babysitter è una commedia che si preannuncia come una delle commedie che possono dominare il botteghino nel periodo autunnale. Uscirà alla fine di ottobre. È un film che racconta una storia, diciamo così, piuttosto divertente, quella di un giovane che vuol fare il, diciamo così, il procuratore sportivo, un po' il suo sogno. Lavora per il momento per quello che è il boss degli agenti dei campioni, interpretato appunto da Diego Abatantuono. Una sera il suo capo gli chiede di fare il babysitter al figlio scatenato. Andrea, appunto Andelli nel film, accetta per entrare nelle grazie appunto del suo boss, ma non sa che i suoi amici avevano per la serata altri programmi, e la mattina dopo, al suo rientro, il povero Abatantuono troverà la casa devastata, nessuna traccia del figlio e del babysitter, solo un video che racconterà l'esilarante verità. È un po' la tecnica del found footage applicata alla commedia all'italiana. Ascoltiamo i tre protagonisti, i babysitter della situazione, appunto il trio Mandelli, Facchinetti, Ruffini. Faccio Aldo Morelli, che è un campione di tiro al piattello, quindi una disciplina, potrebbe essere anche, no, è una disciplina onorabilissima, tiro al piattello, e organizza una serata in favore di del suo migliore amico, che si chiama Andrea Tasso, e che purtroppo deve fare da babysitter proprio il giorno del suo compleanno nella villa del suo capo, ricchissimo, al figlio di 10 anni. E quindi, insomma, diciamo che è un mio personaggio abbastanza cinico, che combina dei disastri e non fa niente per risolverli. Con Mandelli siete al quarto film insieme, una coppia che rimane solida. Speriamo di sì, no? Sì. No, ma ci si trova bene, sai, senza insomma, non è che vogliamo stabilire una nuova coppia di fatto, però insomma, sai, alla fine un po' sì, anche se guardando questo film forse qualche dubbio vi verrà, perché c'è un'amicizia molto intensa. No, ma speriamo di farne altri, perché no? Ci conosciamo da tanto, ci troviamo bene, questo è un film poi molto corale, però insieme abbiamo stabilito una bella sintonia, sono proprio contento. Hai una maglietta di uno che era una coppia di fatto, Bud Spencer. Sì, vedi, però anche loro, ti ricordi sempre coppia, però anche loro avevano sempre la loro individualità, e questa secondo me è la cosa per mantenere a volte viva la coppia, no? In tutti i sensi, sia in amore che nell'artistico, perché alla fine lui poi ha fatto Piedone, Terence Hill ha fatto altre carriere facendo, beh, mi viene in mente Poliziotto Super Più, che bel film è di Terence. Renegade, Doc West, Don Matteo e tanti altri. Beh, sai, loro sono veramente la coppia che ora il cinema non ha. cioè da una parte. Bud Spencer e Terence Hill sono veramente qualcosa di mitico, e che a volte noi si sottovaluta anche l'impatto che hanno avuto nel mondo, ma loro erano conosciutissimi al mondo. Addirittura ho letto su Wikipedia che pensa che quando Benigni ha vinto l'Oscar, insomma, era terzo dopo, come attore più conosciuto in America dopo Bud Spencer e Terence Hill, e si parla di fine anni 90. È un film corale, non lo era quello dell'anno scorso, è il film più corale? Rispetto dici a Natale col Boss, per esempio? Ma sì, perché Natale col Boss era il film di Lillo e Greg, dove io e Paolo facevamo una parte, eravamo coprotagonisti, ma comunque diciamo chi guidava la macchina in quel caso già da 4 anni al Natale di De Laurentiis erano appunto Lillo e Greg, mentre questo è un film molto, molto più corale. E com'è Abbattantuono? Fantastico, no, veramente è fantastico per me. Adesso scherzi a parte, è cioè uno di quei miti con che io non avevo mai conosciuto prima, quindi già conoscerlo ho avuto sempre il pudore di chiedergli una foto, non gliel'ho mai chiesta, perché quando c'hai i miti, quelli troppo grossi, poi non vuoi fare quello che chiede la foto, perché un po' fa da sfigato. Però insomma nel mio cervello lui è uno di quelli a cui chiederei tantissimo una foto, perché è un mito. E lui, Renato Pozzetto, Teo Teocoli, prima dicevamo una generazione di comici, Claudio Bisio, insomma milanese, perché poi io sono milanese e mi rifaccio anche a quella tradizione lì, perché appunto è quello che mi piace, quello con cui sono cresciuto, per cui poi lavorare con Diego sul set è uno spasso, perché lui ride sempre, cioè è uno che si diverte a fare sto mestiere, e quando fai una commedia insomma devi viverla in maniera, cioè non stai salvando la vita di nessuno, devi far ridere la gente, quindi è giusto ridere sul set. Ma ti piace questo ruolo di attore? Nel senso che non è che l'avessi mai fatto in maniera così, diciamo, formale. Sì, sì, ovviamente non sono un attore, come non ho voluto mai identificarmi nel presentatore o nel cantante, sono uno a cui sono state date tante possibilità e mi diverte fare. Il secondo film con Abbattantuono, l'anno scorso ho avuto la fortuna di fare Belli di papà, è stata un'esperienza molto fortunata e fortunata perché mi sono trovato a fare una cosa per la prima volta nella vita mia, fortunata perché ho di fianco a me il grande Diego, che comunque è uno dei miei miti, sono cresciuto guardando i suoi film da Attila in poi, anche quelli un pochino più impegnati, per cui Regalo di Natale, Rivincita di Natale e così via, e fortunata anche perché il film è andato molto bene, per cui trovarmi per la prima volta un film primo in classifica è stata una bellissima esperienza. In questo caso la cosa è diversa, perché in Belli di Papà, diciamo, il personaggio Loris mi assomigliava molto, invece Ermanno in questo film è totalmente un pazzo, non mi assomiglia per niente, spero, è un vice commissario capo sui generis, totalmente impallinato con le serie televisive CSI, True Detective, per cui fa parallelismi con quello che vede nella televisione e quello che vede nella realtà, è uno che al posto di tranquillizzare la gente di fianco a sé, anzi la agita. È stato molto bello perché diciamo in personificare qualcosa che veramente non sei nella realtà in maniera così forte, per cui capelli diversi, occhiali, barba lunga, è una figata. Allora Rosa Purpurea, i tre protagonisti con Diego Abbattantuono di uno dei film italiani che hanno maggiori possibilità anche al botteghino della prossimo autunno nel nostro cinema. A questo punto noi siamo arrivati in fondo a questa nostra prima puntata agostana della Rosa Purpurea. Ci risentiremo sabato prossimo, sempre con tante novità, con tante interviste sul prosieguo della stagione cinematografica, con le ultime dal Festival di Locarno. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. A risentirci sabato prossimo da Franco D'Assisti.